Il vocabolario definisce senno, quella capacità abituale di intendere, di giudicare e operare, con prudenza e saggezza. Se per condurre la propria esistenza l'essere umano ha bisogno di tante qualità, sia fisiche sia morali, il senno certamente non si trova all'ultimo posto. Tutti, ma proprio tutti meno, bambini e grandi, colti e incolti, uomini e donne, meno abbiamo bisogno in ogni momento e circostanza di valutare bene ciò che facciamo e diciamo, perché da questo dipende la qualità della nostra vita. In definitiva, la gioia e il dolore dipendono quasi sempre dal nostro senno. Quasi sempre perché ci sono situazioni che non dipendono dal nostro senno, cioè quelle situazioni che sono state predestinate prima della creazione del mondo e che fanno parte del piano e della sapienza di Dio. In questo caso possiamo proprio dire che nella nostra vita ci sono eventi che ci sono stati predestinati dal senno di Dio, perché in Lui vi è, allo stato perfetto, la capacità abituale di intendere, di giudicare e operare con prudenza e saggezza. Ma poiché ciò che ci è nascosto appartiene solo al Dio Trino, è saggio e opportuno riflettere sul nostro senno, ossia sulla ragione per la quale occorre averlo, e su chi ne è privo e su come sia possibile ottenerlo. Perché occorre avere del senno? Alcune ovvie ragioni le abbiamo considerate, ma dato che la parola di Dio ne parla spesso, e dato che essa è e deve essere intesa a formazione della nostra condotta e cultura, è indispensabile leggerla e meditarla. Si potrebbe anche fare un breve riassunto di ciò che sta scritto nella Bibbia in merito al senno, ma questo non aiuta molto colui che riceve l'ammaestramento, perché spesso ciò che si riceve di già masticato non produce grande effetto. Anche se sembra che per alcuni leggere la parola di Dio abbia un valore relativo, è stato verificato che l'ascolto di un discorso riassuntivo molto facilmente passa da un orecchio ad un altro, ma meno, come disse qualcuno con ironia composta di senno, meno non si è mai sentito dire che ciò che uno ha letto sia passato da un occhio ad un altro. Perciò prenderemo in esame varie affermazioni della parola di Dio perché essa possa rimanere impressa nella nostra mente, dato che un argomento come quello del senno non può essere sottovalutato, e nell'imprimerlo nella nostra mente e nel nostro cuore solo del vantaggio. Quali sono le ragioni addotte dalla parola di Dio perché l'uomo debba acquistare del senno? Sono varie, ma noi ne esamineremo solo 5. 1. Proverbi 12.8. Un uomo è lodato per il suo senno, ma chi ha un cuore perverso sarà disprezzato. Poiché la parola di Dio è sempre pratica, dobbiamo riconoscere che chi parla con un certo discernimento in effetti viene tenuto in considerazione, ma chi apre le labbra senza tenere presente il lato morale non è tenuto in considerazione. 2. Proverbi 13.15. Buon senno procura favore, ma il procedere dei perfidi è nocivo. Desiderare di essere accettati è una delle aspirazioni più grandi di una persona, e avere senno aiuta a creare buone amicizie e a produrre negli altri uno spirito di benevolenza. 3. Proverbi 16.22. Il senno è una fonte di vita per chi lo possiede, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Se una fonte è una vena di acqua a getto continuo, paragonarvi il senno significa attribuire a chi lo possiede un comportamento continuamente sano, che lo rende idoneo a soddisfare se stesso e il prossimo. Non è poco, vero? 4. Proverbi 19.11. Il senno di un uomo lo rende lento all'ira ed è sua gloria passar sopra le offese. La vita è piena di provocazioni di ogni genere che ci portano ad irritarci e a perdere la calma. Ebbene, con il senno non solo è possibile dominare una natura incline all'ira, ma anche non tenere in considerazione l'offesa ricevuta. Non sarà forse la mancanza di senno la ragione per la quale la gente perde continuamente la calma? 5. Proverbi 11.22. Come un anello d'oro nel grugno di un porco, così a una bella donna senza senno. Spesso si accusa di maschilismo la parola di Dio, ossia di essere non solo a favore degli uomini, ma anche di parlare solo del maschio. Ma in merito al senno la scrittura questa volta si rivolge anche alle donne. dato che una delle caratteristiche più importanti della donna è la bellezza, la parola di Dio. Mette quest'ultima in relazione al senno. Il valore della bellezza nel proverbio rappresentata dall'anello d'oro di una donna priva di senno, ossia di discernimento e di prudenza, viene discreditato al punto da raffigurarlo indossato nel luogo più infimo e meno indicato. Infatti, per gli ebrei, un porco era ed è un animale impuro, perciò essere bella ma non avere senno è la peggior cosa che può capitare ad una donna. Questi cinque proverbi mettono in evidenza non solo il valore del senno, ma il guadagno che se ne trae dall'averlo. Se questi fossero dei ragionamenti puramente filosofici si potrebbero anche ignorare, ma dato che il senno produce un benessere in tutti i settori della vita, conviene prendere sul serio gli insegnamenti della parola di Dio. Preso in esame il valore del senno, è opportuno verificare quando non lo si possiede per non trovarci in situazioni dolorose sia per noi sia per gli altri. Proverbi 6.30. Non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi quando ha fame, se viene sorpreso, restituirà anche il settuplo, darà tutti i beni della ma chi commette un adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuole rovinare se stesso. La parola che procede da Dio parla spesso dell'adulterio, ma se chi è un comandamento che viene ignorato è proprio questo. A rendere attraente la parola di Dio con tutti i suoi comandamenti e regole è proprio il suo lato umano. Essa è umana nei comandamenti, umana per spiegare le ragioni dei suoi divieti. La scrittura paragona l'adulterio al cibo, ossia un innato e lecito istinto da soddisfare. Ma sia la fame, sia il sesso possono essere ragione di trasgressione quando i loro impulsi sono molto forti. Così, Dio è consapevole che per fame una persona possa anche rubare, ma se viene colto in fallo, questo è il modo di risarcire il danno commesso. Però non è così per l'adulterio. Un uomo può anche trovarsi in un momento di debolezza e desiderare di commettere adulterio, ma sfogando il proprio desiderio, egli mostra di essere privo di senno perché non può in nessun modo rimediare a quello che fa. L'adultero è privo di senno due volte, perché trasgredisce la volontà di Dio e rovina se stesso. Proverbi 11.12. Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. La relazione con il prossimo è una delle più difficili. Per questo è necessario avere del discernimento e della prudenza. Secondo la scrittura, la bontà rende prezioso l'uomo. Proverbi 19.22. Mentre chi sparpaglia il male disunisce gli amici migliori. Proverbi 16.28. Come chi ritorna sempre sui torti ricevuti. Proverbi 18.19. Proverbi 17.18. Uomo privo di senno dà la mano e si fa garante per altri davanti al suo prossimo. Si dice che essere troppo buoni non va bene, ma troppo buoni non si può diventare. Casomai si può agire con un animo buono ma non assennato. È il caso di quando ci si fa garanti per altri. Nessuno di noi conosce il cuore di una persona, perciò al massimo si può garantire per se stessi ma mai per il prossimo. Ci fu una persona che garantì per un'altra perché fosse assunta in un certo impiego di fiducia, ma in seguito si rivelò poco affidabile. L'essere privi di senno a volte costa caro. Vi è un ultimo comportamento che proprio non ha per nulla del senno, ed è quello di una vita dissoluta. Osea 4:11, prostituzione, vino e mosto tolgono il senno. Si giudica la parola di Dio antiquata senza nessuna attinenza ai valori sociali di oggi, eppure non vi è nulla di più attuale e utile dei comandamenti di Dio. Chi non ha verificato che la prostituzione è una delle peggiori piaghe morali della società al punto di togliere l'equilibrio morale alle persone? Chi non ha verificato che uno smoderato uso di alcolici rende l'uomo insensato e capace di gravi colpe? Non sono forse le droghe leggere quelle che fanno sì che migliaia di giovani a sabato sera vengano falciati sulle strade? È dunque vero che alcolici e la prostituzione tolgono il senno? Perché non dare retta a ciò che è scritto? Che vantaggio ha l'uomo ignorare i comandamenti di Dio? Presa coscienza del valore del senno e di chi ne sia sprovvisto, il seguente obiettivo è chiederci come ottenerlo. Forse qualcuno potrebbe pensare ad un lungo elenco, ma per ottenere del senno sono sufficienti due cose: ascoltare i comandamenti di Dio e i consigli del prossimo. Salmo 119.9, 799. Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Se il senno è composto di prudenza e saggezza, allora la parola di Dio fa il nostro caso. Nessuno di noi nasce accorto e sapiente, e solo la parola di Dio può dare quella giusta accortezza e sapienza. Perciò è indispensabile leggere e meditare sulla parola di Dio per ottenere il giusto senno. Proverbi 15.32. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima, ma chi dà ascolto alla riprensione acquista senno. Nessuno avrebbe mai pensato che il prossimo potesse produrre del senno. Eppure, una giusta riprensione, sia che provenga da Dio mediante le Scritture, sia che provenga dagli uomini saggi, possono produrre del senno in chi lo cerca. Questo significa che il giovane dovrebbe essere attento alle riprensioni dei genitori come della parola di Dio. Questo esercizio produrrebbe in lui l'atteggiamento più importante della vita, ovvero l'ascoltare. In definitiva, il senno consiste proprio nell'ascoltare e nel saper ascoltare. Per una nostra inclinazione naturale siamo schivi alla riprensione, ma una volta compreso il valore del senno, con un atto di volontà è possibile avere un orecchio attento alle riprensioni della vita. E meglio ascoltare una riprensione che portare le conseguenze di un errore. E questo è il senno realizzato nella pratica. Settembre 2006. Ellero,